giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica, ben ritrovati da Francesca Vigori e Lara Zani. Seggi nuovamente aperti da questa mattina e fino alle 23 per l'elezione dei 76 nuovi europarlamentari che rappresentano l'Italia nel Parlamento dell'Unione Europea e per le elezioni amministrative in 114 comuni della regione. I dati sull'affluenza sono in aggiornamento proprio in questi momenti, ve li diamo in tempo reale. Dunque, per il Friuli Venezia Giulia, con 1.005 sezioni su 1.358, l'affluenza alle 12 risulta del 24,84%, con Gorizia che registra un'affluenza del 28%, sempre per le elezioni europee, Pordenone 24%, Trieste 23%, Udine invece 26%. Per quello che riguarda invece i comuni che votano per il sindaco, le sezioni rilevate sono per ora 197 su 238 e la percentuale è del 25%. Alle urne in regione ha chiamato oltre 1 milione di elettori che votano con il sistema proporzionale all'Europarlamento, dove entrano i candidati più votati delle liste che superano il 4% dei consensi. Lo scrutinio avverrà questa notte a chiusura dei seggi. Alle comunali votano quasi 300.000 elettori, per le amministrative lo spoglio comincerà alle 14 di domani, lunedì 10 giugno. Anche oggi, nell'orario di apertura dei seggi, sono aperti gli uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Passiamo alla cronaca. Si è aggravato il bilancio dell'incidente di ieri pomeriggio a Sistiana. Nella notte si è spento all'ospedale triestino di Cattinara anche Paolo Ghidini, ingegnere settantenne di Duino, che con la sua auto ha centrato il taxi condotto da Roberto Burigato, 54 anni, di Ronchi, morto sul colpo nell'impatto. Ghidini è deceduto per le conseguenze dei gravi traumi riportati nello scontro. A quanto appurato visionando i sistemi di videosorveglianza delle abitazioni lungo la statale, la vettura del settantenne, che proveniva da Duino ed era diretta verso Trieste, ha affrontato sbandando la curva dopo il bivio con Sistiana Mare. Una volta imboccato il rettilineo ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il taxi. I carabinieri hanno richiesto una serie di accertamenti clinici per capire se Ghidini sia stato colpito da malore alla guida o se fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze tossiche. Sequestrati anche l'auto per verificare l'ipotesi di un guasto meccanico e il cellulare per accertare l'eventualità di una distrazione. Quel che è certo è che si stava viaggiando a una velocità superiore a quanto consentito in quel tratto di strada. Oltre alle due vittime, l'incidente di ieri registra anche un ferito, una donna triestina che viaggiava dietro al taxi. Le sue condizioni non sono gravi. Si intensificano le ricerche di Christian Molnar, il 25enne disperso da venerdì scorso dopo essere stato travolto dalla piena del Natisone assieme a Patrizia Cormos e Bianca Doros. Le due ragazze sono state trovate prive di vita e ora riposano nel cimitero del loro paese natale in Romania. Le ricerche di Christian invece proseguono e vedono oggi in campo un numero sempre maggiore di forze in vista della nuova ondata di maltempo prevista in giornata, che innalzerà nuovamente le acque del torrente e rallenterà di nuovo le operazioni. Si alza dal campo sportivo a più riprese l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Il fiume è a poche centinaia di metri dalle case. Fornisce supporto alle squadre speleoalpino fluviali e le aiuta a calarsi nelle anse del fiume più difficilmente raggiungibili. Dove non arrivano gli occhi di chi è sul mezzo aereo, arrivano quelli del drone. Accanto al cimitero si osserva col visore in tempo reale tutto ciò che le telecamere riprendono dall'alto. I tre vigili arrivano da Umbria e Veneto. Il dispositivo di ricerca coinvolge ormai più comandi di più regioni d'Italia. Oggi, inclusa Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabinieri, all'opera 55 persone. Alcuni dei vigili lavorano in straordinario. Si spera di trovare tracce di Christian prima dell'arrivo dell'ondata di maltempo che renderà inevitabilmente più complicate le operazioni. Ero orsario quel giorno, è venuto giù un tronco lungo 20 metri, ha fatto bang nel pilone del ponte, ha detto: guarda che forza che ha l'acqua. Speriamo che lo trovino. Dal sindaco di Premariacco intanto l'appello ai cittadini a non organizzare ricerche spontanee e improvvisate per non intralciare quelle dei professionisti. Premariacco, Lillo Montaltumanella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo. Il cielo è nuvoloso su gran parte della regione, variabile su pianura e costa. Le temperature a Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia 26, a Udine Pordenone 24, a Tolmezzo 21, a Tarvisio 20, a Forni di Sopra 18, a Piancavallo e a Sappada 16, sul Monte Lussari 14 gradi, sullo Zoncolan 12, a Grado e Lignano 25 gradi. In queste località la temperatura del mare è di 25 gradi. E vediamo le previsioni. A partire dal pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi, inizialmente più probabili sulla zona montana e sull'alta pianura, ma che in serata e nella notte si estenderanno probabilmente su tutte le zone. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Sulla costa in giornata soffierà vento da sud o sud-est, debole o moderato. Ciclisti appassionati si sono dati appuntamento oggi a Pordenone per partire su un treno storico alla volta di Gemona per rendere omaggio a Ottavio Bottecchia. Gemona ha dato il benvenuto al treno Ottavio Bottecchia a carico di ciclisti con i loro mezzi storici. Alle 9.40 un centoporte storico ha portato i corridori, un centinaio circa provenienti da tutta Italia, alla scoperta dei luoghi e dei paesaggi del grande campione. Un viaggio nel tempo da Gemona fino al Cippo, dedicato a Bottecchia, a Peonis, luogo in cui il campione trovò la sua morte. Poi sosta Ristoro al bar Bottecchia per ritornare in stazione per il ritorno a Pordenone. Gemona del Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio: l'Udinese non rinnova Cannavaro dopo la salvezza in Friuli. L'addio del tecnico, spiace, sarei rimasto. Ora si apre l'incognita, nuovo allenatore. La stagione è appena finita, la prossima sembra già in salita, almeno nel rapporto con i tifosi di una squadra che ha raggiunto la salvezza a una ventina di minuti dalla fine del campionato. L'Udinese, che non riconferma Fabio Cannavaro, tecnico di un'impresa quasi disperata a 6 giornate dalla fine, non piace ai sostenitori friulani. L'annuncio del divorzio è stato anticipato dall'ex pallone d'oro con un messaggio via social. Il presidente Pozzo mi ha comunicato la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale. Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli e per questo mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato. Da grande difensore, Cannavaro ha giocato d'anticipo. Il comunicato dell'Udinese è successivo. Si apre il ballottaggio probabilmente più lungo di quelli possibili delle comunali in corso. Vincenzo Vivarini, 58 anni, ex tecnico del Catanzaro, e Eusebio Di Francesco, 54 anni, fresco di retrocessione con il Frosinone, sarebbero gli allenatori con cui la società avrebbe già avuto dei contatti, ma cresce l'ipotesi di una soluzione dall'estero, dalla Spagna. Il nome: Diego Martinez Peñas, 44 anni, esonerato a dicembre dall'Olympiacos. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude in semifinale la partecipazione di Giada Carmassi ai campionati europei di atletica leggera di Roma. Nei 100 ostacoli l'atleta di Magnano in Riviera, impegnata nella terza semifinale, ha ottenuto il 7° posto, fermando i cronometri sul tempo di 13.00 a 5 centesimi da suo primato personale, 15ª nel conteggio complessivo delle partecipanti alla semifinale. Carmassi è stata la migliore delle 3 italiane impegnate nei 100 ostacoli. Sentiamola al microfono di Elisabetta Caporale, di Sport. Devo dire, vabbè, sono contenta della gara perché comunque ho corso molto vicino al mio personale. Speravo anch'io qualcosina di meglio, perché comunque c'era un bel treno, una bella occasione oggi. Le ragazze hanno corso tutte fortissimo, però ho fatto qualche piccolo errorino, ma devo essere contenta di questo europeo in ogni caso. È morto ieri all'ospedale di Gorizia, dove era ricoverato per una malattia che lo aveva colpito poco più di un anno fa, Mauro Bardusco, 70 anni, per 26 anni direttore artistico del Festival Jazz and Wine of Peace di Cormons e uno dei fondatori di Circolo Controtempo, l'associazione che lo organizza. Persona molto nota anche a Gorizia, dove è nato e dove gestiva un negozio, ha condiviso la passione per la musica e il suo percorso nell'organizzazione di eventi musicali con Fulvio Coceani, altro fondatore di Circolo Controtempo, scomparso nel luglio del 2022. E Davide Leone, il direttore della fotografia di C'è ancora domani di Paola Cortellesi, il vincitore del quarzo di Spilimbergo Light Award, il premio che il Festival Le Giornate della Luce di Spilimbergo assegna da 10 anni la migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione. Davide Leone si è aggiudicato anche il quarzo del pubblico. Prima di chiudere diamo uno sguardo all'aggiornamento dell'affluenza alle 12. Cominciamo con le elezioni europee in Friuli Venezia Giulia, con 1227 sezioni su 1358 risulta il 25,11% di affluenza contro una media nazionale del 24,1%. Anche per i comuni nei quali si vota per le elezioni comunali il dato non è ancora definitivo, ma i votanti sono il 29%. E si chiude qui questo giornale radio redatto e condotto da Francesca Vigori Larazzani con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e in redazione Samantha Gon. Grazie per essere stati con noi. Buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.